365. Pollo in salsa tonnata. Prendete un busto di pollo giovane. Per busto si intende un pollo al quale siano state levate le interiora, il collo e le zampe. Gettatelo nella pentola quando bolle e fatelo bollire mezz'ora, che basta per cuocerlo. Quando lo levate, toglietegli la pelle, che non serve per questo piatto. Disossatelo tutto e mettetelo in pezzi per condirli con sale, non tanto, pepe e 2 cucchiaiate d'olio. Dopo diverse ore che è rimasto ammucchiato sopra un vassoio, copritelo con la seguente salsa. Dato che il busto da crudo sia del peso di grammi 600 circa, prendete tonno sott'olio, grammi 50, capperi strizzati dall'aceto, grammi 30, acciughe numero 3, prezzemolo un pugno, ossia tanto che dia il colore verde alla salsa. Le acciughe, nettatele dalle scaglie e dalle spine. Il prezzemolo, tritatelo fine con la lunetta e poi pestatelo nel mortaio con tutto il resto per ridurre il composto della salsa finissimo. Tolto dal mortaio, mettetelo in una scodella e diluitelo con 4 cucchiaiate d'olio e mezzo cucchiaio d'aceto. Con la metà di questa salsa insafardate il pollo e con l'altra metà copritelo onde faccia più bella mostra, ma con tutto ciò, rimanendo sempre un piatto di poca grata apparenza, potete adornarlo, quando lo mandate in tavola, con 2 uova sode tagliate a spicchi, messevi per contorno. Potrebbe bastare per 6 persone ed è un cibo appetitoso, opportuno per principio a una colazione o ad un pranzo per gente di poco appetito nei giorni caldi, quando lo stomaco trovasi svogliato. Per raschiare e pulir bene il mortaio di cose morbide o liquide come questa salsa, è molto a proposito una grossa fetta di patata cruda.